Benvenuti a Canne e Camicia, è la prima volta, ora da un po' di mesi che non facevo più trasmissioni, ripartiamo con l'anno nuovo, vediamo un po' a caso, proprio a caso, questa trasmissione è totalmente a caso. Allora, l'idea è, ho un aspirapolvere rotta, devo ripararla, prova a ripararmela, prova a ripararmela da solo, vediamo cosa succede. Parto con la sigla, e vi racconto la mia idea, che sarebbe provare a riparare questa roba in live, vedere cosa succede. Probabilmente una merda, però io ci provo. Il punto è, l'aspirapolvere è rotta, non è mia, non so cosa è rotto. Quindi me l'hanno portata, non si accende, non fa niente di niente. Quello che mi viene in mente come possibilità di rotture, le più banali sono: o ovviamente si è rotto il cavo, quindi l'alimentazione non arriva, che è possibile perché comunque ha quel sistema di arrotolamento del filo, quindi arrotola, srotola, può essere che si sia rotto. Oppure un pulsante di accensione che sembra funzionare, non benissimo, ma sembra funzionare, però va smontato ovviamente per vederlo. L'altro sistema è quello di regolazione della velocità, e quindi anche quello potrebbe essere un punto debole. Dopodiché c'è quello più disperato di tutti, che è il motore, per cui il motore se n'è andato e lì buonanotte. Allora, detto il programma, io lancio la sigla e vediamo come va. Bentornati, io spero si senta qualcosa, non sono tanto sicuro, non ho feedback di sapere se questa cosa sta funzionando o no. Allora, intanto volevo raccontarvi una storiellina veloce sull'aspirapolvere, che è un'invenzione che è stata inventata tra il 1865 e il 1876 negli Stati Uniti. Il primo apparecchio, appunto, pare sia stato sviluppato da un inventore di Chicago, però in realtà nel primo brevetto del 76 da Hanna M. Manville Bissell, per un apparecchio fissato su una carrozza trainata da cavalli con una pompa azionata manualmente e un lungo tubo utilizzato per pulire i tappeti. Si chiamava infatti Bissell Carpet Sweeper. Vabbè, i primi due aspirapolveri elettrici apparvero quasi contemporaneamente, ma praticamente furono concepiti in due, in da due inventori diversi nello stesso momento. Io intanto metterei un altro pezzettino, poi continuo un po' con la storia e poi mi metto a smontare. Io vi lascerei quindi con Jiali Zuan and the Number of the Beast, soltanto rifatto da appunto Jiali Zuan. Don't know where, they've been, don't know where they're going, don't know where they've been. Is late, cause the ocean, they had shackles on their leg. Food was bad, food was rancid, but they ate it anyway. Don't know where they're going, don't know where they've been, don't know where they're going, don't know where they've been. Sun goes out, you'd be standing all alone. Sun goes out, you'd be standing all alone. We'll be right back. Eccomi. Voilà, ho saputo che fino adesso ho avuto un po' di problemi, cioè il microfono non si sentiva, quindi non si è sentita una ceppa. Allora, vi aggiorno sulla situazione. Io ho smontato tutto piano piano, è stato molto... Sì, ho staccato il filo, sì, ok, il filo l'ho staccato, no, se no c'era la 220 attaccata e mi sentivate urlare. Quindi ho staccato tutto. Ho smontato il coperchio. Dicevo che non so bene di che marca sia. Io questa l'ho praticamente trovata al cassonetto. Quindi l'aspirapolvere non funzionava. Però mi è stato detto che era un bel aspirapolvere. Quindi io l'ho presa perché ne ho bisogno. E no, avevo una scusa fino adesso per essere tutta la casa polverosa, ora invece mi toccherà, purtroppo mi toccherà pulire. Però a parte questi problemi, io ho smontato l'aspirapolvere, non faceva niente, quindi l'idea di base, appunto, che dicevo all'inizio è arrivare a smontare il cavo d'alimentazione. Quindi prima cosa, controllare il cavo d'alimentazione, dopodiché una micro scheda di controllo della velocità, che è proprio micro, non c'è un cazzo, sono proprio due resistenze, un microcontrollore e un transistor messo in croce. Quello che vi dicevo che era una figata è che il transistor per raffreddarsi è attaccato a una aletta, e l'aletta va a finire nell'aspirazione del motore, quindi è l'aria stessa dell'aspirazione del motore che raffredda questo transistorino. Trovavo molto divertente. Intanto io ho provato prima il test col tester, quindi il pulsante di accensione, e funziona, quindi il pulsante sembrerebbe da corrente, non fa ancora una minchia, quindi non so bene se prima ho testato, mi sembrava che arrivasse 120 volts nella scheda, che è abbastanza improbabile perché non sono in Inghilterra, non sono, almeno non mi sono accorto di essermi svegliato stamattina in Inghilterra, quindi non so com'è che arriva a 120 invece che 220. Io intanto vi mando un altro pezzettino un po' più allegro, quindi yeah, vado. Hey you, don't watch that, watch this. This is the heavy, heavy monster sound, the nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock-steady beat of madness. One step beyond! We'll be right back. Rieccomi. Allora, intanto io sto arrivando al cuore dell'aspirapolvere, perché appunto io non riesco a smontare minimamente il cavo di alimentazione senza spaccare tutto. Uno dice: perché lo vuoi smontare per forza? Lo potresti bypassare. È vero, nel senso, io potrei tranquillamente agganciarmi direttamente alla scheda di controllo dopo, e quindi bypassare direttamente il cavo d'alimentazione. Però in realtà a me non è che poi mi interessa nemmeno così tanto per forza ripararla. Cioè, il mio intento era anche solo vedere com'è fatta dentro, perché c'era tante cose che mi hanno sempre incuriosito, come appunto questo meccanismo di riarrotolamento del filo, che è una figata, nel senso che è veramente banale, funziona benissimo. Mi sa che l'ho spiegato quando non funzionava un tubo, quindi ve lo rispiego. Praticamente è essenzialmente un rotore su cui si avvolge il cavo, con una parte del rotore dentata, quindi come se fosse un ingranaggio, e semplicemente c'è una specie di cunetto di gomma che, quando voi tirate il filo, essenzialmente andate a caricare la molla e questo cuneo è libero di girare. Quando invece rilasciate il meccanismo, il cuneo entra, si incastra a triangolo perché viene tirato indietro, quindi dalla stessa forza della molla, si incastra e tutto si blocca così. Quando voi premete il pulsante di rilascio, quindi che il filo va a riattorcigliarsi automaticamente, altro non fate che alzare questo cunettino, quindi si alza il cuneo, la molla va a agire sulla puleggia, la puleggia inizia a girare e si ritira dentro il filo. Detto questo, è tutto molto figo, il problema è come cazzo la smonto, perché è tutto molto incastrato in una scatola effettivamente piccola. In più c'è il problema molla, che c'ho sempre il solito problema che, a parte prenderla nel viso, il secondo problema è che quando si srotola, poi riarrotolarla è un cazzo un culo. È veramente complicato, potrebbe essere una situazione complessa, quindi vorrei provare a cercare di arrivare al capo del filo senza smontarla, cioè proprio provare a staccarlo dall'attacco e sfilare il filo con tutto la puleggia ferma. È lunga. Intanto io continuo con un altro pezzettino, sempre in genere molto carino, e vi lascio quindi con gli Special con Ghost Town. Eccomi, allora, come sospettavo e come immaginavo, allora sono riuscito, smontando il motore, si riesce a accedere al sistema di puleggia per tenere il filo e la cosa è fatto molto bene. Devo dire che raramente mi sentirete dire se questa roba continuerà. Questo programma, perché in realtà bisogna vedere come va, però se sta roba continua, raramente penso che mi sentirete dire che una roba di elettrodomestici, di questi plasticoni così, è fatta bene. Questa è veramente fatta bene, nel senso che si riesce a smontare tutta la puleggia come elemento a sé stante, con il suo freno, quindi col suo blocco, con il cavo, si smonta tutto veramente veramente bene. È fatto bene, devo dire. Una delle cose che effettivamente anche mi chiedevo è come funziona il trasferimento dell'elettricità dal cavo al motore, perché appunto essendoci il rotore che gira dove è avvolto tutto il cavo, in qualche maniera deve trasferire quindi l'elettricità e no, non può farla direttamente con il filo perché appunto si arrotola. Quindi il filo si arrotolerebbe tutto e alla lunga ovviamente si rompe. E il trasferimento elettrico in questo caso è per sdrusciamento, quindi ci sono proprio cioè due piste ben separate, ben distanti, un'interna e un'esterna al margine del rotore e di là due linguette che toccano quindi i due poli. Quindi per sfregamento, quindi essenzialmente in questo caso, considerando lo sfregamento comunque minimo perché non è un motore che gira a alta velocità, sei tu che tiri indietro avanti la puleggia, quindi è un niente. Quindi considerando che appunto viene ruota poco, come meccanismo mi sembra alquanto infinito, nel senso che sì, per sfregamento prima di finire i contatti, insomma, ce ne vuole parecchio. Si rompe molto probabilmente altra roba. Infatti, quello che sospettavo è si è rotto il filo. Dove si è rotto il filo? Nel punto di curva massima, cioè all'uscita della bobina, dove quindi c'è, diciamo, il primo pezzettino di filo che esce dalla bobina dove si avvolge, che è nel punto dove si piega di più. È nel punto dove effettivamente quando lo srotoli ritorna dritto, quando lo riarrotoli ritorna quasi a non 90 gradi, ma insomma c'è un po' di gradi in questa curva. Ovviamente lì si vede proprio, cioè c'è proprio il filo che è completamente staccato, nero, perché probabilmente per un po' ha funzionato sfiammellando. Quindi dico, sentenzio che il problema è lì. Adesso io potrei anche continuare un altro pochino, ho altri pezzi, intanto potrei provare a tagliare, quindi a togliere quel pezzettino di filo che sono veramente 3 centimetri di filo, potrei provare a toglierlo e riattaccarlo più corto, ma a questo punto funzionante. Ovviamente questo significherà che tra un pochino si riromperà esattamente nello stesso punto. Questo è classicamente uno dei difetti innati, sia nel meccanismo, che è ovvio che se si arrotola un filo nel punto più vicino alla bobina è più stressato e quindi tenderà a rompersi, difficilmente risolvibile, diciamo, si può provare quindi a girarci un po' di nastro isolante a far sì che ci sia qualcosa che allenti un po' il movimento, che quindi il filo stia eretto un pochino anche quando è tutto avvolto, per appunto diminuire l'angolo in questione, però ovviamente, quindi, però a saperlo, quindi uno sa che il meccanismo che si può rompere è questo, anche se tra 5-6 anni mi si rirompe, la riapro, si apre molto bene, ricambio altri 3 centimetri di filo e quindi direi che insomma va abbastanza bene. Io passerei all'elettronica, anche se molto lieve e piacevole, con i Dila, e la canzone in questione si chiama El Meccanico. Rieccomi, allora, ho trovato finalmente un cazzo. Il primo elemento che mi dice, ok, vabbè, potevano farlo meglio. Non è terribile, però, praticamente, essenzialmente io ora sto riavvolgendo il filo perché devo scaricare per forza la molla, perché per aprire il rotore, quindi, e arrivare al capo dei fili, per staccarli e accorciarli, purtroppo l'unica maniera è andare a aprire il lato dove c'è la molla. Quindi io dovrò allentare tutta la molla per evitare che schizzi a destra e a manca. Questo l'ho già fatto. Dopodiché devo allentare e togliere la sicura di questa molla. Tenerla con un dito perché non mi schizzi per tutta la casa, e purtroppo niente, devo levarla e poi dopo dovrò ricaricarla. Comunque ho visto che non è così complesso, avendo tutto il rotore in mano, diciamo che poteva andare peggio, ecco. Non c'è tanto precarico, quindi ora nel momento in cui io la smonto non dovrebbe partire, invece sta partendo come un missile. Ok, no, malissimissimo, proprio brutto, brutto, brutto, brutto. La rimetto a posto perché no, no, no, cacca, cacchissima, aia, molla ovunque. Però io non posso arrivare alle viti che sono sotto la molla se non levo la molla. Però se io levo la molla, mo dopo come la rimetto? Vabbè, io levo la molla, poi, madonna, mamma mia, oh. E che... Evviva, ragazzi, evviva. È pesissimo qui la situazione. Se mollo, tipo, mi troverete avvolto nella molla. Sta tirando da fa paura. E vabbè, posso provare a vedere se riesco a arrivare alle viti e poi rimetterla sicura e tenere tutto in mano mentre smonto. È un cazzo di casino. Però vediamo. Perché effettivamente le viti e questa bobina dove c'è avvolto il filo è divisa in due parti, quindi una parte destra e una parte sinistra, in quale nel mezzo c'è il cavo. Per aprire le due parti, tra la destra e la sinistra, ci sono tre viti. Queste tre viti però sono posizionate subito sotto la molla, quindi se non levo la molla ovviamente non posso aprire le viti e non posso arrivare al cavo. Però la molla essenzialmente è una di quelle molle... Non so come si chiama, è una molla piatta, quindi essenzialmente come se fosse un, come si può dire, un piattellino, una piattellina di ferro che niente, che si gira intorno a se stessa. Non è una molla del tipo elicoidale, è una molla di quelle tipo da orologio, per capirsi. E quindi quelle lì sono praticamente vive, nel senso che stanno dentro, stanno in pari tra di loro solo perché sono costrette attraverso dei fermi, ma nel momento in cui le lasci tendono a schizzare ovunque perché non è che proprio siano molto simpatiche e vogliano collaborare in nessun modo. Ora, io intanto metterei un altro pezzettino, non vi faccio sentire la mia morte in diretta, sempre rimarrei su un po' di elettronicheggiante, siamo alle 7:17, 7:18 di giovedì 5 novembre, direi che è l'ora dell'aperitivo, io partirei con un po' più leggera elettronica, sempre più piacevole, però andiamo verso la sbombardona, e direi che a una certa finale chiudiamo le sbombardone, sempre sbombardone sia. Quindi i Quantic So Clap. Thank you.

Eccomi. Allora, vi aggiorno sullo stato. Allora, prima cosa, ho volato la molla perché era insostenibile, mi era attorcigliato tutto con la molla nel braccio, un casino boia devastante. Quindi sono praticamente scappato dal tavolo mollandola. Lei si è arrotolata e aggrovigliata a qualsiasi cosa presente sul tavolo. Dopodiché sono riuscito a staccarla e a lanciarla via più lontano che potevo, e quindi poi me la vedrò dopo. Dopodiché sono non totalmente riuscito a aprirlo perché ancora non ho ben capito come sta chiuso, però parzialmente, abbastanza da vedere che comunque i contatti sono saldati, quindi ho già attaccato il saldatore. Però non ho molto tempo, teoricamente tra 2 minuti dovrei finire la diretta, quindi niente, io sarei per dire che comunque funziona, nel senso che il cavo era ovviamente rotto, devo solo sostituire il cavo e l'aspirapolvere penso che funzioni. Niente, vi farò sentire il rombo dell'aspirapolvere la prossima settimana, no, quella dopo ancora, perché farò una settimana sì, una settimana no. Peccato, vi abbandono senza i pezzoni sbombardoni che avevo preparato. E va bene, niente. Buon giovedì a tutti, divertitevi, belle cose. Ciao.